Ha detto che mi tira una fucilata se gli spengo il coso, il televisore. Non mi conviene che c'ha un calibro 12 di quelli a pompa. Ah, ecco. Se no magari ti fa qualche attentato con la tronchesina, no? A tagliare i cavi. Le cappa, mi lo sta spegnendo lì. Oi. Dai, almeno oggi si respira un po'. Meno caldo c'è di ieri. Dai, no. Meno caldo di avanti ieri, 2 o 3 giorni fa, sì, a voglia. C'è questa arietta leggera, dai, che è gradevole, si sta bene. Non è il caldo opprimente dell'altro giorno, dai, che proprio non tirava un filo d'aria, non c'era ossigeno nell'aria proprio. Ehi, se un amico mio dice che stava salendo in moto e sta per venire qui da queste parti, dice che il caldo gli bruciava la faccia. Sì, ricordo, l'ho fatto anche a me quando andavo in moto, per carità. No, quando è l'altra mattina sono uscito dalla Cobec lì a Santa Maria, cazzo che c'erano condizionato la palla, sono riuscito, cazzo, mi è arrivata questa vampata di caldo, mi stava venendo un coccolone, mi sono dovuto sedere. Tu due mineggia così da un caldo freddo o viceversa? Ah no, oia, vabbè, spesa l'abbiamo fatta e la settimana ricomincia di nuovo tutto da capo. E infatti io ho già mangiato. Buona digestione allora. Oia. Dopo mi faccio una pasta fredda con i pomodorini, giusto per rimanere leggero. È poco buona, ya. Io qui la faccio con i pomodorini. Magari ci mettiamo anche... l'ho comprato, vabbè, pazienza. Per oggi va bene così, ci teniamo leggeri. Andrà bene mela. Non si è sentito nessun altro nel frattempo? Ehi, ho sentito a Carlo, ma doveva andare al lavoro e quindi sarà già andato. Oh, signor, ho spento perché dovevo mangiare e non ho sentito altro nessuno. Ieri dopo tanto tempo ho sentito Logariello. È entrato 10 minuti e poi è sparito come al suo solito. Stamattina l'ho sentito a Logariello e poi non è più entrato. Sicuramente avrà da fare e quindi non può stare davanti alla radio. Comunque per la pasta con i pomodorini una cosa ti dico, lui piazza bocca rugoridocca. Ah no, messo che è andato un figurone. E hanno ribiazzi si raggiambia. Ah no, troia, no, mangio d'estate, mangio sempre un po' più tardi, no? Così mi si apre lo stomaco, perché adesso proprio fammi proprio nuda. E il caldo è quello. Sì, hai ragione. D'inverno invece gli stimoli sono completamente diversi, è proprio là proprio di mangiare, non me la futti proprio nuda. Più tardi, tanto già è veloce, fare una pasta a quei livelli, dai. Poca spesa, molta resa. E te credo. Vabbè, l'antenna come si sta comportando bene, Natali? Sembra di sì. Oia. È che costicchia un po' quell'antenna lì. Ci fosse una versione un po' più barata. Si sarebbe potuta prendere in considerazione, ma onestamente, personalmente parlando, non me lo posso permettere di spendere quei soldi lì. Non so, sarà buona tutto quello che voi, però budget è quello che è, quindi ci accontentiamo di quello che passa il convento. E infatti poi Catta per Sassari non è che ci vuole una grande antenna, si sentono da tutte le parti, poi basta che abbia una 5 ottavi normale. Io l'ho presa questa per non disturbare, perché è molto larga di banda, così uno può anche ascoltare nelle altre frequenze, perché questa fa 10, 11 e 12 metri, arriva fino a 31 MHz, figurati. No, quella caratteristica non la conoscevo, non pensavo che fosse così tanto aperta in questo tipo, in questo range di frequenze. Già è così. Io l'ho presa anche in previsione che dovessi riuscire a prendere la patente, me la potrei usare sui 28, capito? E ce l'ho già l'antenna. Per i 28 va bene, sui 10 metri qua lo stesso, sui 12 va bene. Ma come si dice? Ma insomma viene il termine. Lì in quella dai 26, dai 28 in poi, movimento ce n'è. E a voglia, solo che ci vuole la patente. Ieri erano aperte tutte le frequenze. 28, 40 metri, 20 metri, da tutte le parti c'era gente. No, guarda, io mi era capitato tramite PC, come ti chiamava, c'è un sito Roma 4, SDR, una cosa del genere, e di lì poi ogni tanto andavo a spazzolare, a cercare roba da ascoltare. Ma non è mai come ricevere dalla tua antenna, capito? Stai ricevendo da un'altra stazione, praticamente. Vabbè, certo. Certo, quello è normale. Adesso vediamo un po'. Domani, dopodomani facciamo quest'ordine. Il microfono può aspettare, dai. Prendiamo l'antenna, il cavo. Ho trovato un'offerta su Amazon per i PL. Niente, il microfono lo mettiamo in stand-by, che non è così urgente. E infatti. Scusa, il nostro paese di amoralità. La più importante la cosa è l'antenna, perché tu puoi avere tutte le radio che vuoi, ma se non hai antenna non fai nulla. Sì, sì. Il microfono può aspettare. Così ogni antenna, ogni apparato avrà la sua antenna, perché volevo prendere quella sorta di commutatore, di switch, però poi agito, cioè faccio prima a collegare ogni apparato alla sua antenna, quindi è già m'appuscio, intanto lo spazio c'è e non mi chiedono il pane. E infatti, almeno puoi ascoltare su un canale e parlare su un altro. Poi dovrò decidere quale radio collegare alla 5 ottavi, ma sicuramente collego il Geopix, dai, il alias Pluto, e all'Uranus gli aggancio la boomerang. Sì, infatti, la boomerang ce la chiedi per ascoltare e l'altra la usi per parlare, capito? Certo che sì. Buccia è tutto, presente, Vediamo, me lo sono scritto qua. Allora. Qua fa tolto il capo microfono e quindi me ne vuole fare una quarantina di euro. E dai, con un centone prendiamo tutto. Infatti. Secondo che antenna a freddi rende pure un bel video, così tu. Perché c'è Franco e c'ha quella Venom, quella con i radialini piccoli, che gli rende un bel, ma lui ha anche la posizione. Sì, sì, prenderò quella. L'ho trovata in due posti diversi, su eBay. La stessa antenna, e uno la offre con un paio di euro in meno, però è la stessa. Prendo quella e poi 30 metri di H155 dalla Germania. E il K, così almeno c'hai anche il cavo con una bassa dispersione, diciamo così. E poi faremo qualcosina, dovremmo guadagnarla, dai, non assai, però, ma almeno in ricezione e in trasmissione. Sono 6 metri d'antenna, fate un conto. 6,5 ottavi dovrebbe essere 7 metri. Ma tieni conto che è compensato dalla carica, dalla bobina, dai. Quello che c'è, non c'è in antenna, c'è in bobina. Ho letto 5, dovrebbe essere 5,70 m. Ma sei sicuro che è 5 ottavi? Sì, sì. È quella. Ma perché 5,50 m sarebbe mezz'onda, occhio a non sbagliare. No, dovrebbe essere 5,80 m, una cosa del genere. Ma mi sa che è un po' corta. Già chiedo a Franca a vedere quanto è lunga la sua. Sì, cioè, c'è anche la Venom, mezz'onda, senza radiali, e quella è più corta, intorno ai 5,20 m, boh, una cosa del genere. Mentre quella con i radialini, la 5 ottavi è 5,80 m, mi pare, qualcosa del genere. Ok. La mia è alta più di 7 metri. Grazie. ne stavo parlando con Marco, siccome c'è, come giustamente hai rilevato tu, c'è un po' di confusione, bisogna stare attenti, però è molto probabile, come stava dicendo Marco, che la lunghezza dello stilo sia compensata attraverso la bobina, capito? Quindi per fare in modo di rientrare in quella data lunghezza hanno compensato con la bobina. Così mi sembra una soluzione più che logica. Ho capito. Poi stracobarato, ma 52 euro, cosa abili? La boomerang nuova costa uguale. Figurati, io la 90 euro l'avevo pagata, quella tipo la BA27L, quella che avevo prima. La Energy, come quella che c'era Marco? Sì signore. L'ho vista. Ho sbirciato anche quella, poi ho sbirciato la Sirio, la GPV, però quella è mezz'onda, e quindi è un po' tentato a mettere quella, però boh, dai, alla fine trick e track è sempre o ghita o l'altra. Una ne serve, boh. E infatti. Ma io con questa già mi sono trovato bene, perché è molto silenziosa. Una carta con chi dava più, con la Energy, sempre il QRM a Santiago 7 c'avevo. Non sentivo a nessuno. Con questa sento la propagazione, sento tutto. E guarda, da me con la boomerang è proprio Santiago 1, in giorno dove c'è propagazione, ci sono spuri in giro, può salire tipo a 2, massimo 2-3 oscillante, dai, ma mai più di tre, dai, perché questa bene o male già è silenziosa, vabbè, è piccola, però già è abbastanza silenziosa. Ma si è chiusa la propagazione adesso, perché sentivo la propagazione, io quando stavo parlando con Carlo c'era propagazione forte. Sì, è calata, è che c'è un range molto corto, capito? Quindi arrivano segnaloni e poi dopo 10 minuti sparisce tutto. Sì, perché non si è stabilizzata ancora. Eia, dai Natale, io ti lascio adesso, dai. Casomai ci si sente più tardi, ok? Cappa già. Vai a Fornilli, vai. Andare, dai, ci aggiorniamo più tardi. Buon proseguimento di giornata. Ciao, ciao. Ciao Gianni, ciao. Ci cuccano alle 10, c'è qualcuno in ascolto? Ci cuccano alle 10, c'è qualcuno in ascolto? Ci cuccano alle 10, c'è qualcuno in ascolto? Hola, hola. C'è qualcuno in ascolto? CQ10. Ola. Avanti la ola. Chi è avanti? Ciao a lui, Natalino sono. Oh, ciao Natali. Buongiorno, buonasera anzi. Beh, è un caggio da Murino qui, mamma mia. Sì, me lo posso immaginare. Ah, mi sono sciuccato la faccia un poco. Certo che ci deve essere caldo lì a Cabassoli. Sì, oh, yeah. Ma ne arrivo il segnale, nata lì. Eia. Già andava, dai. Mi ho regolato un po' l'antenna, mi ho regolato. Il cappa. Certo, troppo alta la stazionaria. E ho collocato il capo, mi ci sono state le stazionarie, adesso l'ho messo un po' a posto. Ho tirato un po' di batte adesso, dovrebbe andare bene. Vedi cappa. Cappa, cappa, e a voi andare. Beh, ma che ci ho dato il computer. Posso un po' di più, dai. Non hai sentito nessuno? Negativo. Cappa, cappa. signore. Ma magari grazie, vabbè, ma devo passare tutta la ghida in occhio. Mamma mia. Dove coloro andiamo in mare, cazzo? Sì, tu che era stato meglio. Andiamo a mare. Lo dici tu. Qua sale la temperatura, ma la so. Tutte le occhi, oh ya. Yeah. Cazzo stamane! Ti so go, cazzo tu cazzo. Che ci devono fornitore chi mi vicino Alex Questura? In via Coppino, il reponitore guetta, lampado Eva, ha lampato, cazzo vado a prendere quella curva, cazzo, ha dubbiato una liscigata, però mi sono arrabbiato, gli ho detto, come cazzo ci avete buttato lì? E magari avranno messo benzina e due lampadure Eva. Più che altro il gasolio che fa scivolare. E o il gasolio qualcuno ha perso e ha buttato l'acqua, lui invece deve buttare la sabbia, non l'acqua. Per carità. E se l'ha fatto un bambino il fornitore, magari con tutte le gente che ce l'avevano. Adesso non è successo che per fortuna non mi sono fatto niente. E se mi facevo male, chiamavo l'ambulanza e stati cazzi suoi, mi sta male. E te credo. E te ne andavi pure in infortunio. Lui come regola non può buttare acqua. No, mi pare che devi buttare acqua se è caduto gasolio o benzina. Devi buttare la sabbia. È tutto bello burrito, gatto, guleva, a mandare il ghizzo. Cazzo, ti ho pigliato un vinchio, ci sono infusi poco poco le rotte, gatto. Oltretutto tu, come regola, non potresti buttare acqua così, nell'asfalto. Come regola, mi se chiamavo di vigenza di cazzi suoi. Ehi Antù, una volta è entrato un camion nell'officina di Coso, in via Bongino c'era un'officina che aggiustava camion, ecco. Deve essere questo camion, ha perso il gasolio, ha perso, o ha perso olio, che cazzo ne so. Cazzo, passo io una Vespa, ci sono che ci dai paladura, cazzo, in Viale Sicilia, cazzo, sono caduto. Ti sto dicendo, c'era il marito della mia professoressa, quando ha visto come ho girato la moto e sono caduto, ha detto, non ho mai visto nessuno cadere così, ha detto, ma niente, ti sei fatto, no. Cazzo, a Baido e Vira, signor Benito, un meccanico, rampendi la sabbia, la puoi rugare giù due però. Se volevi, chiamava il vigile, avrebbe passato un po' di guai, avrebbe passato brutti quarti d'ora. Perché tu non puoi buttare la cosa così. E se ho perso il controllo della moto, meno male che l'ho tenuta, cazzo, andando, lo sterzo mi andava, cazzo, si muoveva avanti e indietro, allora ho preso, cazzo, dato un colpo e ho girato in modo che la moto cadeva sul lato, capito? È roba da macchina, roba da macchina veramente, cioè questa gente butta fa. Che tu si rendi conto che Eddy non ne ha fatti nulla a casa. Ma io per fortuna ho frenato pure e stavo andando piano. C'è un pezzo di moto, cazzo, se volevo se ciglioso dici, basta fare cazzati dove. Insomma, non è possibile che questa gente si comporti così. E signor Benito, per esempio, magari non lo sapeva neanche che quel camion aveva perso, perché c'era un camion dentro appena entrato, deve essere. E salendo lì il camion, deve essere che ha perso gasolio, ha perso olio, che cazzo ne so. Fatti i casi che ci dai paladuna in Viale Sicilia da Via Bolzino. Sono caduto in Viale Sicilia. Cioè, quando stai molto crashata, casino, e comunque gli avrei fatto pagare il danno. No, non mi sono fatto niente, né io né la moto, però cazzo, intanto sono caduto io. Beh, non avrei fatto il candaro. Vabbè lì. E Anzu, c'è mia moglie che mi stava dicendo cose. Ho detto, non gliel'hai fatto lo scandalo. E certo che gliel'ho fatto. C'era il marito della mia professoressa, ma mi sto capendo, guarda, gli ha detto cosa che adesso. Allora, se chiamavi i vigili era fatta mia. Avrebbero messo una bella contravvenzione, anche il risarcimento di danni. Prima già lavoravo all'acqua di rose. Infatti quando sono caduto io lui ha buttato la sabbia lì. Adesso se passava un altro non sapeva guidare come guidavo io, si sarebbe ammazzato lì. Possiamo andare? Ma Edo aveva pagato tutto, mi accertamenti ti avrebbero messo nei guai. E ti avrebbe dovuto pagare chi. Che cosa? Che tecido, perché aveva fatto duro danno. Mi sarebbero accorti facendo le perizie. L'ultima cosa. Ma dove era questa officina? Non sai che forse io non l'ho mai conosciuta. Era l'officina dello zio di un amico mio, di Donato. Signor Benito, si chiamava Benito lui, aggiustava il camion. Aggiustava. Ma che macchine? E anche le macchine, però aggiustava il camion più di tutto. Era in fondo a via Bugino, di fronte alla scuola mia proprio, era. C'era un cancello e c'era l'officina di signor Benito lì. Ah, ho capito dove. Un bel danno mi manca anche io. Però c'era anche quello che faceva le macchine della polizia. Quello era in via Bogino. E cioè in via di Sicilia quello della polizia era. Stavo parlando di molti anni fa che non l'ho conosciuto nemmeno io. Forse ho conosciuto l'altro, quello che sto dicendo io. Dice che era bravo. Quelle viale Sicilia sì che erano bravi lì. Adesso non mi ricordo come si chiama. C'ha l'officina in viale Porto Torres adesso. Quello lì. Quello lì è. Dove c'è Silanos? No, non è Silanos, aspetta ma cazzo si chiama. Portava sempre la macchina Gianni Do Fiorini lì a aggiustare, perché cazzo era bravissimo come meccanico quello. Faceva le Alfa Romeo, quello, le Fiat. Bravissimo era, adesso non mi ricordo come si chiama. Il Mabri, un capo non me la mente. Gianni Do Fiorini portava la macchina lì. Dilli come si chiamava quello di Viale Sicilia. Ce l'ha in viale Porto Torres adesso, è giusto alle macchine della polizia, anche lui, dei carabinieri. Gliele portano lì, deve essere a fare il tagliando. Perché lui adesso, Silanoso non c'è più e deve essere la concessione, ce l'ha quello lì, dell'Alfa Romeo. Infatti l'ho vista lì la macchina io. Rossetto mi pare, no, può essere. Come? Ruzzetto. Rossetto, no. Non me lo ricordo come si chiama. Comunque è bravissimo quello lì. Adesso c'è il figlio, quando c'era il padre però erano bravissimi. Lì. Anche la polizia gli portava le macchine a aggiustare. Sì. E poi lo diceva babbo che erano molto bravi, erano anche onesti. Poi si sono trasferiti laggiù. Ogni avvocato sono sempre così, boh. E avave Luvigliuru, in viale Porto Torres. Quando erano in viale Sicilia c'era il padre di quello lì. Ed era bravissimo, era. Adesso non mi ricordo come si chiama quel signore. Gianni si lamentava perché gli cambiava sempre pezzi in più, trovava, perché ti controllava la macchina da capapirini, qualsiasi cosa che non andava bene te la cambiava e ne usciva perfetta la macchina da lì. Mi chiedila Gianni. Si lamentava che era caro, perché cazzo caro, se ti cambiava tutti quei pezzi che erano rotti, lui trovava i pezzi rotti e te li cambiava, te li faceva anche vedere i pezzi che non andavano bene. Però la portava sempre lì perché era bravissimo come meccanico. Già me l'avevo detto che era bravo. Però Natalino, vedevo che già, se uno non se uno dice di non cambiarlo e tu glielo cambi non va neanche bene. Già lo so. Però lui ti faceva la radiografia alla macchina. Quando tu arrivi, quando c'era anche lì la macchina era perfetta. Perfetta. Allora sono di perfetta. Dopo è già che arrivi a Rugonto. Rugonto diceva si la buttava in chiesa, però la macchina è perfetta. Se tu gli dicevi di fare la messa a punto, lui ci faceva la messa a punto. Controllava la macchina la KP. La pompa era chiusa, non c'era nessuno. La pompa era chiusa. Se non ce la faceva a cambiare il pezzo si diceva mica si è rotto questo pezzo qua. Ma che fortuna degli! Portamela che te la faccio. Perché adesso non ho avuto tempo magari di dirgli. Però ti lo dirgli che dirà che qualsiasi cosa che non andava bene te lo diceva. A Gianni se gli trovava qualche pezzo che non andava, glielo cambiava direttamente. E da poi gli si arrogonta Gianni, infatti si lamentava di dice, cazzo mi cambia sempre i pezzi in più alla macchina, e poi ti erano i facciati già. Tu mi dovevi dire Giamba solo chissà. Se no è logico che gli dici Giamba tutti. A chi era Pignolo, anche Gianni è Pignolo a morte. Infatti non è che dicesse tanto, perché se c'era qualche pezzo che bisognava, che doveva essere cambiato, non è che gli diceva niente, pagava in buco. A chi gli ha usato via, chi le faceva davvero rubì. Vabbè. Molta gente non ci crede però. E dice, no, non è così, ti dice. Adesso prima un pochettino di più si poteva fare, adesso si può fare un po' di meno, perché la gente non ha soldi e ti rompono le palle, magari non te ne portano più, capito? Magari per una cazzata della gente perché ne più la macchina, bisogna stare attenti come ti comporti ogni giorno. Sì, già lo so, tu aspetta un attimo che devo cambiare l'ora all'orologio, che mia moglie ha trovato che è un'ora diversa. C'è indietro. Ehi, ok. I'm going to go to the hospital. CQ10. Qualcuno l'ascolta, no? A parte i tedeschi sotto. Ma cosa tedeschi? Ciao Natale, sì, sono tedeschi in USB. Pure in USB si mettono a rompere le scatole. Arrivano chiari. Sembrava un FM e poi ho girato e invece sono in USB. E quindi, novità? Negativo, nessuna novità. Sto aspettando che mi chiami mia moglie che deve portare il cane, così gliela faccio scendere. Poco affollamento in questo periodo, no? In frequenza. Sì, ci sono momenti che c'è molta gente, momenti che non c'è nessuno. Capito? Ho parlato con Antonio poco fa. Sì, è venuta bene la pasta con i pomodorini, dai. Mi devo ritenere soddisfatto. E tu non sei soddisfatto? È poco buona. Pasta corta. Le pennette. Mi piacciono parecchio. Ci sono scese dritte. Ehi, caspita, quando vai così ti dico io. Anche a me piacciono le pennette. E adesso ero da... forse era una settimana che non mangiavo pasta asciutta. Ci voleva, ne avevo proprio voglia. E ho deciso se farmi una di luglio, poi vabbè, ho deciso di cambiare ricetta all'ultimo, eh. Ma è andata bene lo stesso. Aspetta. Ma adesso se l'ha preso un cane, via, gliel'ho fatto scendere. Ho sentito che stava abbaiando. Burue doveva ragione. Bisogna farlo sgambettare ogni tanto. Non è inteso roba da baggio. Ah no, proprio ti ha coperto. Piccolo ma si fa sentire, dai. Piccolo è, come si dice, a quella di Gnogno. Quanto tempo c'ha Natalia il cane? 6 anni deve fare. Un giovinotto maturo, dai. Già mi è cucciato di sugani. Ma l'hai trovato tu o lui che ha trovato te? E lui già ha trovato l'America, ha trovato qua. Poverino, quando gli hanno fratturato la zampa quel cane grande, ha bisogno di un cane corso, non lo so neanche che cane è, perché ce l'aveva mia moglie, ero fuori sasso di quando è successo, gli ha troncato la gamba in tripusti. Penso, qualche mosso, no? Deve essere stato. Eia, non me ne vogliono dire, chi l'ha visto e lo sa chi è, non me ne vuole dire, perché lo sa che glielo sparo anche davanti al padrone. Vabbè, si è ripreso, dai. Ehi, con 1500 euro a prezzo. Cazzarola. È una bella botta, Gli hanno messo la placca, l'hanno operato due volte. Una placca di ferro gli hanno messo, di ferro, io sono usando di ferro, metallica, da, per tenergli la zampa. Una volta che si è ricostituito l'osso l'hanno tornato a operare per toglierla, ha capito. Già si è ripreso, bravo quel chirurgo. senza contare che l'ho aiutato io e mia moglie, allora c'è le radiazioni che mi ho preso, perché lo dovevo tenere fermo per non fare sempre addormentarlo il cane, capito? Perché aveva fatto tante anestesie, quindi molte volte lo tenevano sveglio e lo dovevo mantenere io per fare il raggi. Ho capito. È stata una bella missione, dai. E alla clinica universitaria l'ho portato, dove fanno la scuola ai veterinari, capito? C'ero stato anni fa per conto della televisione a fare, insomma, a fare dei lavori lì. Ho visto alcune cose. C'era un amico che ci bazzicava lì, vabbè, lui lavorava con i cavalli, però ha degli amici che frequentavano quel posto. Io l'ho frequentato solo per lui, per il cane, e me l'ha salvato, meno male. Ho detto, se rimane dopo lo abbatto. Ho detto, fra me e me, per non fargli fare la fine, cioè la vita all'Offian. Invece già si è salvato. Meglio così, dai. Ha avuto un buon supporto. Già lo credo, anche 1500 euro ci sono voluti per l'operazione, senza contare tutte le medicine, le cose che ho dovuto comprare, solo per l'operazione quei soldi lì ci voglio. Da voi due tubi su radio passato, un'estate bruciata completamente, perché ero sempre andando da loro per portargli il cane, capito? I punti, si toglieva i punti questo cazzo del cane, mamma mia, tu guarda, non puoi sapere cosa giù bassa due io, quindi so che immagino. Beh, però credo che in qualche maniera ti stia ricambiando dell'aiuto che gli hai dato, dai. E quello sì, c'ha un'intelligenza fuori dal comune, poi cosa ti volevo dire? E giustamente il cane mi ha cambiato il carattere, come ti vedi il cane Manni si rivuova a bintare, perché era bravo, però adesso come vede i cani grandi subito li abbaia che vuole andare a morte. Gli sale la carogna, lo si è. C'era un pitbull che giocava con lui. Come lo vede? Mi devo brincare in alto, lui lo mantiene. Perché magari si viene all'improvviso e si gira di cudo mostro dagli animi, chi gli do gas è più male e più forte. Certo, già sicuramente quell'esperienza non l'avrà dimenticata, quindi è sempre sul chi va, dai. E proprio il carattere gli ha cambiato. Per esempio c'era una pitbull femmina che giocava con lui, va via ogni agabo, manna gli giagani, ogni agabo manno che fai va via, eppure giocava e non gli faceva niente a lui, a te l'immagini. Sì, va bene, magari c'è già con maschio e femmina, insomma, riescono tra virgolette a, non dico tollerarsi, ma insomma, ma mascio e mascio, oi. No, ma poi quando li vede grandi, ai cani piccoli manco li caga, ma ai cani grandi, cazzo, come li vede grandi, perché si ricorda di quello che era morsicato. Non dimentichi già Ugani, no? Gli ha cambiato il carattere, Brucchi. Certo, già c'hanno una bella memoria, già non li butti così, no? Tu lo dovevi vedere, cazzo, quando sono tornato l'ho visto così il cane, mamma mia. Immagino, dai. anche se sono quadruperi, fanno sempre parte della famiglia, in qualche modo. A me come ci sia un figliuolo, io non ne volevo, perché c'avevo un pastore tedesco, io, che c'era lo stesso nome di Lucia, aveva, e mi è morto quel cane, io non ne volevo più. La giubilata per me moglie, io non ne volevo, infatti è intestato a mia moglie quel cane. Succede così, sembra che sia tu a scegliere, ma in effetti si scelgono loro. Infatti già c'ha asciugato la tua edda, come se capobranco, un preso. Fui buzuibu. Sono molto intelligenti. Se la sente prima di entrare nel vicolo, tanto per dire, lei è all'altezza del tabacchino, no? Subito abbaia come un cucciolo lui, perché sa che è mia moglie, e io me ne accorgo da quello perché cambia abbaia, no? Quando lui abbaia così vuol dire che è mia moglie. Io me ne avviso subito che andiamo in moglie, perché lui abbaia come un cucciolo. Cambia tonalità, diciamo, cambia verso, dai. E quindi è più facile da riconoscere. Lei senza suonare né niente, se passa nel vicolo senza suonare né niente, lo stesso la sente che lì non è venuta di qua. Scusa un attimo, mi stanno chiamando. Rieccoci, Troia. Magari c'è Marco Mudo, Husseini. Marcolino in agguato. Già sarebbe entrato. Attenzione, Condor, a ci sei. Che sei poco incazzoso. Qui ce l'hai, che è sempre in agguato. Salendo mi veglia, un saluto a tutti. Ciao Marcolino. Ciao Gianni, Natalino, eccetera. Sì, sono proprio in dormiveglia qua col ventilatore a subito. Oggi poi non mi sentivo neanche bene, quindi non sono uscito. Continuate pure, dai. Bisogna che ha una bella cura ricostituente, devi fare Marcolini, sei giù forte, una bella passata di tic e track ci vuole. Cosa ne dici Gianni? Sì, fortemente consigliata. Ciao Marco, buonasera. Fate che non aggiungano a parlare. Allora, grave, notevole deperimento organico. Si consiglia grande passata di trick e track. Quantomeno su posta di mio duro. Sì, non mi dire se è passato pure dall'altra sponda. Se no l'ultima speranza è l'asino della crucca. Guarda, se vai lì ti passa tutto. Va bene, dai, sono mezzo cuccato con spalle al baracchino, continuate, non ne voglio parlare. Vabbè, dai, buon QRX. Quello è pericoloso, quello della crucca, Grazie. Lì non si scherza, lì entrano in ballo i pesi massimi. E se prova quello anche il raffreddore gli passa. Troia. Lo manda in orbita. Ah no. Così sarei il primo vero uomo sulla luna. Certo che sì. Tu lo arrivi, ne è capata, dai, almeno tiriamo sul buon umore, dai. Questa non possiamo tirare su altro, almeno quello possiamo. Qualche piccola iniezione di buon umore, vabbè. Troia. Senta la bulldozer qua, sono guai, Allora sì che ridiamo a vero. Io mi assimiliano una casa. Ho notato poco movimento tra oggi e ieri, cioè, tutti al mare a mostrare chiappecchiare, oppure chi è rientrato in casa a sorseggiare birra fresca, cioè non fa uscire, non è giugano proprio. E perché io non sono tappato in casa? No? Ah, io non niente, io non cosa ci vuoi fare? Troppo caldo. C'è Antonio a Cabassori, Bovaraccio, chi su sì che è soffrente. Aspetta, forse avete parlato in due, chi era l'altro? In due, se non solo parlo io. Poi per spegnere la radio vi faccio due pionchi. Giusto. Stai zitto tu qua qua, ma per dirle la che non sia altro. Mia Claudio, me. Ciao, buonasera. Ciao a tutti, buonasera, buonasera, buonasera. Cazzo è? Lei è uno che ha già mai vinto a fare tutti. E cosa ci vuoi fare qua? Con i mezzi a disposizione, più di quello non possiamo fare. Già va bene. Se mando la tarare mi ammazza l'idea. Perché Marco, basta, ti sto arrivando. Cosa c'è? Cosa c'è? No, tutt'altro che è basso, ma passava Natalino di radio. Natalino è anche da liscio, è più forte il segnale. Ma tu lo sai, se io vado in massa da Carvanti e porto questa radio, con l'FL 2100 cosa mi succede a voi a Sassari? E io cambio canale. Non ricordi Marco che io sono a 6 km da Sassari, non vedo Sassari, quindi ti puoi immaginare, è già troppo quello che sto facendo, però intanto mi hai sentito, hai visto? Ma infatti oggi, vabbè, questo smitter non serve a niente, però il tuo segnale sembra già più alto, mentre altre volte sì, 9, 9, 10, poi mi sta segnando circa fondo scala. Perché sto usando l'effetti 920 versione da 200 watt, vero Gianni Rubreffetta, non ridere tu. Eia, no, ci sono i tedeschi sotto in banda laterale già da poco fa, infatti ce li avete in sottofondo, ma no, quando entrate. Oh, contate che oggi ho i watt della mutua, oggi questo ne avrà 3,5 massimo, poi c'è il famoso filtro, ne escono 2,5 dal filtro, c'ho 2,5 seppure. Anche io c'ho 2,5, vero Natalia? È lo zero finale. Disgraziato, guarda lo smicchia tuo, guardalo. Questa è la versione da 25 watt. Versione 25 watt. Versione 200 watt. Potenza minima, potenza alta della radio. Sì, sì, qua è... Vabbè, questo smitter si segna un 9 o 9 più 30, quindi natura, cioè, 25 sei 9, e versione 200 sei sul più 30, che non... ma non sa cosa, non sa... non è preciso, potevano anche non metterlo in questa radio, lo smitter. Dai, riprendete una giungana, dai, mi mangio un gelato piuttosto. Qua è Natalia. Ma fai scambio, io ti faccio il caffè, tu mi porti il gelato. Cosa vuoi, gelato, Natalia? E allora? Mia moglie se n'è andata, cazzo, non me ne fa mangiare. E dice che mi fa male. Adesso mi bevo un bel succo io, e anche io non sto bene, Natalia. C'ho capogiro, nausea. Un po' messo male sono in questi giorni, vabbè, vai, pazienza, già si riprenderà tutto. Vai, Romero Ferri, rimango un attimo in ascolto, ci sentiamo dopo. Eia. Oh, yeah. I cartofi in sotto ci sentono. È forti pure, oh, yeah. Molto strano, non... cioè, adesso vabbè, a memoria, vabbè, io il mio parere non conta un cazzo, però non mi ricordo che i tedeschi arrivassero così forte. Prego, prego nel canale per un saluto, gava gava gava. Mamma mia, arrivi due a me, arrivi due il demolitore della strada, che tanti saluti da Tommaso Cifas, stamattina li ho sentiti tutti, Tommaso Cifas, Aquila Solitaria, Aquila della Notte, Bollello, salutatevi tutti a Massimiliano Bulldozer, cazzo sarai Bagardi. E allora, io sono Lello e questo è il mio pisello, dai, dai, dai. Dai, dai, ci andiamo. Pezzo di ciao Massimiliano. Ciao Natalino, ciao Prefetta, ciao Claudio, ciao Conno. E la buona so che fai ancora, sono passato per il saluto. Vedi Natalino, l'abbiamo chiamato e è arrivato, lì ce l'hai. Allora, ci credi che sia buccia di gioga? Ma mi ascolti, lo prefetto? A voglia. A cosa c'è? Hai attaccato il motocarro, così è? No, la motopompa. Sì, sì, un figurone. Questa è proprio la radio con le matracche, no? Cava, cava, dai, perché ci sono questi in banda laterale che sono ben furti, capito? E a me mi ascolti, Massimi? Sì, sì, io ti ascolto, Claudio. No, vedi, ci arriva Messi. Ah, con un fruscio, grazie, in banda laterale, dice il ventesimo metodo, grazie. Vabbè, dai, che allora devo parlare. Ma proprio su 10 devono andare nel CSB a rompere il capo. Che cazzo che dice no, che cazzo, ho messo un paio di marce, dice il due goita, vedi. Mamma mia, come sto. Va bene, proseguite, dai. Riprendi Marco, che mi allontano un attimo, già sono subito. Cazzo che lampeggiare tutto. E anche qua è tutto un lampeggio, dai. Dai, anche io, ragazzi, sono passato solo a salutarvi, dai, me ne vado al 45 e faccio due passaggini, dai. E poi vado a lavarmi la cogliuca, me ne vado, bravo. Vai, vai, Bulldozer, vai alla grande. Ciao Massimiliano, ciao, buona Costa Greca. C'è qualcuno che ha chiamato Marco, chi è che chiama Marco? Avanti. Massimiliano. Tedeschi, chi sei? Avanti, buonasera. Buonasera, Pietro Mulder, sono Pietro Mulder, coordinate Brindisi, televiso Ruta, cambio. Salutamelo, qua. Ciao Fabio, buonasera, ben ascoltato. Radio Sparviero dalla Sardegna, città di Sassari. Ti passo un amico così lo saluti, voi Massimi. Osirio, ciao Fabio, la radio tele, buonasera, Massimo Bulldozer qua, ti abbraccio e saluta, capa. Ciao Massimo, sono per i saluti, dai. Ciao Massimo, ciao Marco, coordinate Brindisi qua. Positivo, dai, ciao Fabio, ce la ricordiamo le prossime, dai. Io passo nel 45 a fare due passaggi. Ciao ragazzi, ci sentiamo dopo se coincide. Ciao Claudio, Natalino, Gianni Lubefetta, Marco. Mi lavo la gugliupa e torno, dai, ciao. Ciao, ciao, buona lavata, alle prossime. Con il pattolo di ferro, mi. A bucarti di tutto su più, quello che fai dentro il cornicione. Ah, aspira. Oi. Lubefè, non fate entrare l'occhio, allora io quanti giorni. L'ho letto, ci vuole, ogni tanto ci vuole un po' di brio per tirare sul morale. Questo è un canale XXX. Allora, sono maleducati, sono, ragazzi, Massimiliano. Io non ce ne tratto più, se l'ho tratto per te. Non ci avrei parlato con questi energumeni. Anche lui è diventato cuoco, Bruno è dove il commissione, un po' pigiato, però per la Bruno. Non si è più, tutto quella canale molta, quella canale nuova. Dove non ridino, Bruno Duio, quella canale nuova, mi l'hai compreso. Non te ne sei pensato delle falende tutte in terra. Ehi, a me mi è uscita l'unghia. Davvero? Sì, sì. Ma l'unghia nera? No, non è nera, però è uscita l'unghia lo stesso. Ma non vuoi dare una tronchesina, amica, se tu vasi. Ci vuole la tronchesa? Dai, da dubbio, lui, il libro, va a pagarlo. Ciao la cesuia. Ciao, me ne vado da qua, ciao. Ciao Massimi, salutami tutti gli amici del 45, trovo avanti, non sono stato a Tommaso che era a Sassari, dai. Arrivi a una bomba, cazzo. Oh, claro, mi sa che ti do quel 4005, te lo colleghi e lo provi, là. Intanto ce l'ho qua fermo. Ho cucina con il dottor Rione, gas. Ah, te lo lascio il cofano? No, ma sì, lasciami perdere che non c'ho posto e poi non voglio rompere palle, dai, a tutti i dini, grazie dell'offerta. E io andavo, dai, ciao, a dopo. Ciao, Massimino, un abbraccio, a dopo. Vai, Natalì.